Sei talento da vendere, sei talento da vendere, ma nessuno te lo compra e a te tocca stare in ombra. Che anche tu vuoi un posto al sole, dare un morso al panettone. Bocca mia fatti capanna, l'apertura è di una spanna. Raccomandami papi, per un salto di qualità. Papi, papi, raccomandami, che anch'io voglio fare varietà. E se scoppierà lo scandalo, ne faremo mercanzia. Basterà pentirsi un minimo, tanto il popolo ha scarsa diotria. Raccomandami papi, se lo scoprono pazienza. Miglior modo non c'è, credimi, di negare l'evidenza. Sono il fazzoletto rosso e tu un toro bello grosso. Io una discarica d'amore e tu il termovalorizzatore. Papi, papi, raccomandami. Raccomandami, papi, quando sbuca Mastro Lindo, sai di avere fatto bingo, che con quel tuo bel musetto entri ed esci da ogni letto. E se levi il naso turati, mentre il papi fa i suoi comodi, meglio non essere astemia, se a piegarti ti viene l'ernia. Che mammina non perdona, se non sei di bocca buona, che se non raggiungi l'apice, non avrai neanche le briciole, e tu vuoi con discrezione far la parte del leone, e ingoiare anche il sospetto, che non sia proprio corretto. Ci son troppe boccalone, pronte a mandar giù il boccone, e quando la frittata è fatta, lui si tira sulla patta. La bella lava al fosso, rava negro mulas, barbabieto le spinastre, balanche al mas. La bella lava al fosso, al fosso a risentua, e anche la risenta, rava negro mulas, barbabieto le spinastre, balanche al mas. E anche la risenta, e quasi allora si mise a piangere, rava nero un blastato dietro le spinastre, la banca e la allora si mise a piangere, la perdi più la la alza gli occhi al cielo, rava nero un blastato dietro le spinastre, la banca e la sbassa gli occhi all'onda, la ride un pescatore. Pescator dell'onda, rava nero un blastato le spinastre, balanca al mas. O pescator dell'onda, pescatemi la rete. O pescator dell'onda, pescatemi la rete.